2024 2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati a 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Se questa per voi è la prima volta, benvenuti. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook, su Twitter, ma come sempre preferiamo comunicare con voi via email, anche perché così archiviamo tutte le nostre email in modo più ordinato rispetto a quello che accade nei social network. Dunque, vi ricordo che anche questa trasmissione sarà disponibile attraverso il sistema podcast di Radio 24, un modo nuovo di ascoltare la radio. Se ancora non siete abbonati al nostro podcast, bene, fatelo, ci sono tantissime applicazioni per smartphone che servono per gestire il podcast, ci sono anche dei programmi per computer, oppure potete utilizzare la nostra applicazione, l'app di Radio 24 o direttamente il sito internet di Radio 24 andando poi nella pagina di 2024. Iniziamo con le nostre notizie in breve della settimana, le nostre digital news, poi due approfondimenti sui veicoli automatici, ma in modo particolare su il VisLab, che era un laboratorio di un'università a Parma, ma poi è diventato un'azienda, è stata acquisita da un'azienda americana quest'estate, quindi ricapitoleremo alcune delle cose che sono accadute, poi naturalmente parleremo anche delle tecnologie che abilitano i veicoli automatici. Poi faremo un approfondimento estremamente interessante sull'illuminazione smart, parleremo di luci LED, ma soprattutto di quello che si può fare oggi con le luci LED connesse alla rete, una cosa straordinaria, meravigliosa, fantastica. Ne parleremo tra poco con Gianfranco Giardina, che sarà di nuovo nei nostri studi. Iniziamo con le nostre digital news. Digital news. Iniziamo, potremmo dire in ordine alfabetico, da Amazon, che ha annunciato l'avvio di un nuovo servizio in Italia, si chiama Prime Now, che per il momento solo a Milano permette di ricevere alcune tipologie di prodotti entro un'ora. Il servizio è dedicato solo ai clienti Prime, che quindi pagano un abbonamento, costa 6,90 euro, oltre al costo del servizio Prime, a meno che uno accetti tempi di consegna a fasce di 2 ore, in questo caso non si paga alcun sovrapprezzo. Ordine minimo 19 euro, per il momento ci sono 15.000 prodotti, soprattutto di uso quotidiano. Comunque questo nuovo servizio dà il là un po' della direzione verso la quale si sta andando anche nell'e-commerce, consegne sempre più veloci e con tempi sempre più precisi, e di questo abbiamo parlato anche recentemente a 2024. Un'altra notizia riguarda Expedia, che ha comprato HomeAway per 3,9 miliardi di dollari. HomeAway è un sito internet dove è possibile cercare una casa da affittare per brevi periodi, così come lo si fa su Airbnb, che è forse un po' più famoso di HomeAway. Comunque, sicuramente questo acquisto farà sì che questi servizi verranno integrati nell'offerta di Expedia. Digital News. La francese NetAtmo, che produce stazioni meteo, termostati e altri sistemi connessi alla rete, ha ottenuto un finanziamento di 30 milioni di euro. Il gruppo di finanziatori è guidato da Legrand, è una società francese che si occupa di materiale elettrico, è un colosso dei materiali elettrici e controlla in Italia Biticino. Ed è interessante vedere come Legrand stia cercando di ampliare la propria offerta verso l'Internet of Things, o comunque a sistemi digitali connessi più moderni rispetto al classico sistema elettrico. In questo caso stanno nascendo molte start-up in quello che si chiama Smart Home, e spesso queste start-up sono più veloci e innovative dei grandi gruppi, ed è per questo motivo che i grandi gruppi finanziano o acquistano alcune start-up molto innovative, e quindi il caso di Legrand che finanzia NetAtmo. Veniamo in Italia, la conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo di un decreto ministeriale, pensate, era del 12 settembre 2014, quindi dopo più di un anno si approva questo testo di questo decreto che ha istituito il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, cioè il famoso catasto delle reti, che da anni in molti chiedono, ma che alcuni grossi player delle reti, in modo particolare nelle telecomunicazioni, hanno sempre osteggiato, perché per alcuni la troppa trasparenza crea qualche imbarazzo. E ricorderete che ne abbiamo parlato anche 2024, molto tempo fa, avevamo detto che era necessario, prima di fare una cablatura della nazione, avere un catasto per capire dove si trovano le infrastrutture. Magari ci si accorge che c'è già un sacco di fibra ottica in giro, già posata e non utilizzata, e in questo le regioni hanno una grande responsabilità. Ci sono molte ex municipalizzate che hanno un sacco di fibra, non la mettono a disposizione degli operatori di telecomunicazioni, e di fatto poi non la mettono a disposizione delle aziende e dei cittadini, nonostante siano reti in fibra ottica costruite e pagate da soldi del contribuente. Digital News. Alcuni ricercatori del MIT, dell'Università di Harvard e della Carnegie Mellon hanno analizzato 110 app disponibili sia su Google Play che sull'App Store di Apple, e hanno scoperto che un numero elevato fornisce a terze parti informazioni sugli utenti. Noi accettiamo, diciamo di sì a cose che non leggiamo, e questi ricercatori hanno scoperto che ad esempio il 73% delle app Android, fra quelle analizzate, condivide l'indirizzo di posta elettronica, quello che noi abbiamo fornito magari durante la registrazione. Il 47% delle app per iOS condivide informazioni sulla posizione. In generale, dicono questi ricercatori, le app Android comunicano a terze parti più informazioni personali di quanto lo facciano le app iOS. Tra le altre notizie della settimana, non si possono non notare i risultati straordinari di Facebook. Questa settimana Facebook ha sorpreso gli analisti. Tra parentesi, va pur detto che gli analisti non ci beccano quasi mai. Una volta pensano che un'azienda faccia un risultato e l'azienda stupisce facendo un risultato superiore. Un'altra volta il risultato è inferiore. Insomma, le volte in cui gli analisti proprio indovinano, certo che non è facile, però prossima vita faccio l'analista. Dunque, a parte le battute, il nuovo risultato di Facebook è sorprendente, e sono aumentati gli utenti, che nel mese superano l'1,55 miliardi. In tutto il mondo i ricavi sfiorano i 900 milioni di dollari e il fatturato 4,5 miliardi. Sì, è vero che ci sono anche alcuni dati che possono leggermente preoccupare. Pare che gli utenti condividano un poco di meno. E vabbè, insomma, poi l'analisi del dato specifico va fatta e ci si possono trovare mille spunti di riflessione. Però va detto che Facebook stupisce per la capacità di fare ricavi, aumentare gli utenti e soprattutto generare ricavi. Tra l'altro, a completamento di questa notizia, va detto che Facebook è entrata per qualche ora, ma comunque ha superato una capitalizzazione di 300 miliardi di dollari, e ci sono molte poche aziende che hanno una capitalizzazione superiore. Questo mini gruppo è guidato da Apple, che però stacca tutti, proprio sta là in alto e nessuno la tocca, perché di capitalizzazione in borsa in termini di miliardi ne fa più di 680 miliardi. Va detto che non l'abbiamo commentato ultimamente, ma anche l'ultima trimestrale di Apple è stata eccezionale, e anche qui va riconosciuta la capacità del manager di Apple, oltre che di fare prodotti sicuramente di serie A, eccezionali e ben considerati dai consumatori, molto apprezzati dai consumatori, anche una capacità di far uscire i prodotti con un calendario che si adegua anche ai risultati borsistici e alle trimestrali, quindi con una attenzione molto particolare anche a questo. Molto interessante, quindi complimenti a queste aziende che continuano a stupire in ambito tecnologico. E visto che noi ci occupiamo di tecnologia, non possiamo non notare che tra le aziende più ricche del pianeta in termini di capitalizzazione ci sono prevalentemente aziende tecnologiche, che sono quindi in grado di, oltre che generare utili, ma anche insomma di essere apprezzati dagli investitori. L'unica azienda che ancora mantiene un posticino in questo club delle aziende più ricche in termini di capitalizzazione è la ExxonMobil, che è uno dei grandi colossi del petrolio. Dunque, adesso ci occupiamo di veicoli automatici, partendo da una notizia che riguarda Tesla, che ha rilasciato da qualche settimana, ne abbiamo parlato, un aggiornamento software delle proprie auto che attiva l'autopilot, un sistema che permette all'auto di eseguire molte manovre in modo automatico, mantenere la distanza di sicurezza, frenare, nel caso l'automobile davanti freni e si fermi, mantenere la corsia, e queste cose le fanno anche altri veicoli, ma Tesla fa di più: curva, quindi mantiene la corsia anche in curva, si ferma in coda, anche questa è una tecnologia che abbiamo visto su altri veicoli, ma ad esempio supera, se uno mette la freccia, l'automobile in maniera completamente automatica può superare. Però Tesla ha sempre ricordato che si tratta di una tecnologia di assistenza alla guida, non è che va utilizzata in maniera automatica. Ma purtroppo ci sono molti proprietari di Tesla che hanno fatto anche dei video mettendoli su internet, si sono affidati un po' troppo a queste tecnologie, in alcuni casi c'è stato qualche piccolo errore, e allora la casa automobilistica californiana ha annunciato l'intenzione di mettere una sorta di allarme, probabilmente una cosa del tipo che se si abbandona il volante per troppo tempo scatta questo allarme, proprio per ribadire che non siamo ancora nell'era del veicolo a guida autonoma. Questi sono sistemi di assistenza alla guida. In ogni caso, i sistemi di guida autonoma migliorano sempre di più e quasi tutti i produttori dichiarano che entro i prossimi 5 anni avranno un veicolo a catalogo capace di viaggiare in autonomia. Allora, molti sanno che a Parma esiste da parecchio tempo un laboratorio specializzato in visione artificiale che ha realizzato già vari veicoli capaci di guidare in autonomia. Uno di questi addirittura è andato fino in Cina partendo dall'Italia. Il VisLab è stato creato dal professor Alberto Broggi, che insegna all'Università di Parma. Era diventato uno spin-off nel quale l'Università di Parma aveva il 5% ed è stato venduto questa estate ad Ambarella, che è una società quotata alla borsa di New York, per 30 milioni di dollari. Quindi una bella cifra, è una delle operazioni più ricche in Italia per una startup. Visto che l'ho annunciato, avevamo dato la notizia quest'estate, ma l'intenzione era quella di incontrarsi con il professor Broggi, che attualmente è in aspettativa all'Università di Parma ed è il direttore generale del VisLab. Beh, questa settimana ho fatto visita al professor Broggi, abbiamo parlato di quello che è successo, ma soprattutto di quello che accadrà in termini tecnologici per questa azienda, che comunque rimane in Italia, e questa è sicuramente una buona notizia. Sì, il VisLab, che era uno spin-off dell'Università di Parma, è stato acquisito da un'azienda americana, diciamo per le competenze che aveva nel campo della visione artificiale. E adesso non siamo più spin-off dell'università, ma siamo un'azienda vera e propria, diciamo governata da questa azienda americana che ci ha acquisito. Gli americani si chiamano Ambarella, un nome anche simpatico, che da sempre fa chip per la visione. Che cosa fa questa azienda? Sì, sviluppano chip per telecamere, e quindi per l'acquisizione del dato immagine e la compressione, e ad alta qualità e a basso consumo. E per dare un esempio, sono i chip che sono all'interno delle telecamere, le action camera, le GoPro e simili, telecamere simili. È la parte, diciamo, di elaborazione del segnale all'interno di queste telecamere. E voi di che cosa vi occupate o di che cosa vi dovete occupare? E noi, come sempre, ci occupiamo di visione, quindi di elaborazione di immagini. E diciamo c'è stato un match industriale fenomenale tra il VisLab e Ambarella, perché dicevo, Ambarella si occupa di chip, quindi di hardware, noi ci occupiamo di software, quindi elaborazione del segnale, e l'obiettivo è mettere il nostro software all'interno dei chip di Ambarella, quindi per fare alla fine un chip che fa sia acquisizione ma anche l'elaborazione di tutto il segnale. Una domanda su questa acquisizione all'interno del mondo universitario. Per l'università, in modo particolare di Parma, questo è stato un grande business, però c'è anche chi dice che è un pezzo di nostra ricerca che se ne va negli Stati Uniti. Poi in realtà non se ne va completamente, perché il VisLab rimane qui a Parma, ma da questo punto di vista che cosa dice il professor Broggi? Ma in effetti io penso che sia invece un grosso vantaggio, sia, diciamo, come dicevamo prima, un business, certo, perché girano un sacco di soldi in questo ambiente, però il business più grosso è il fatto che noi come VisLab rimaniamo qua in Italia a Parma e cresceremo qui a Parma, avremo bisogno di persone, e quindi ci sarà un indotto sicuramente interessante, anzi c'è già stato, perché ormai siamo più di 30 persone, siamo 33 persone adesso, e tutti ingegneri che lavorano al VisLab, e rimarremo proprio all'Università di Parma, perché avremo un nostro edificio all'interno del campus universitario, e questo dà sicuramente prestigio all'università da un punto di vista, perché magari alcuni studenti verranno per intraprendere la nostra ricerca, quindi aumenteranno il numero di studenti all'università. Dal nostro punto di vista, invece di Vislab, siamo all'interno dell'università, quindi il prestigio ce lo dà l'università. Quindi insomma è una sinergia che penso che sia veramente vincente. Ambarella ha sede a Santa Clara, nel cuore della Silicon Valley. Non hanno tentato di, vista l'acquisizione, parliamo di 30 milioni di dollari, quindi insomma molto importante, non hanno tentato di portarvi in Silicon Valley? Ma sì, devo dire che il primo approccio è stato quello, acquisiamo la società e portiamo tutti in Silicon Valley, perché insomma molti fanno così, anzi direi moltissimi fanno così. Però insomma, chiacchierando, parlandone con loro, poi abbiamo visto che sarebbe stato una perdita, e soprattutto mantenendoci qua avremmo aumentato il valore del nostro territorio e poi anche le persone, avremmo avuto la possibilità di attirare persone con background giusto, perché le formiamo noi all'università, e con background giusto all'interno di questa azienda. Quindi abbiamo poi valutato che era un vantaggio per entrambi rimanere qua. Questo, dicevo, è un punto anche di arrivo, sicuramente di partenza, un punto di arrivo di una storia che è di circa una ventina d'anni. Sì, abbiamo iniziato direi una ventina d'anni fa come laboratorio dell'Università di Parma, e facevamo anche in quel caso elaborazione di immagini per veicoli, e il primissimo test che abbiamo fatto è stato un primo test nel 94, però il vero test di veicolo che guida in modo automatico sulle strade pubbliche l'abbiamo fatto nel 1998. E avevamo una Lancia tema attrezzata in modo abbastanza amatoriale, con telecamera da videocitofono, insomma sono situazioni veramente primordiali, diciamo. Sì, viste oggi un po' ridicole, potremmo dire. Assolutamente sì, però è stato l'inizio. Andava da sola questa macchina? Andava da sola, abbiamo fatto un giro d'Italia al 94% in automatico, vuol dire che il 96%, il rimanente 6% abbiamo guidato noi. Però è stato, diciamo, semi-automatico, perché la velocità era fissata manualmente. Però lo sterzo era guidato in modo automatico. È stato il primo test. È stato il primo test che poi ci ha lanciato globalmente. Eravamo uno dei pochi laboratori al mondo che si occupava di queste cose. E poi pian pianino ci siamo occupati sempre di più dell'argomento. Abbiamo partecipato a delle gare negli Stati Uniti. Insomma, siamo stati veramente al fronte dell'onda della ricerca in questo campo. Beh, anche oggi, ancora oggi, voi avete delle automobili che guidano da sole. Qui ho visto ci sono due piccoli garage con due automobili pronte per fare dei test. Non so se li fate poi tutti i giorni qui al campus universitario. Sì, sì, i nostri veicoli sono in giro tutto il giorno e imparano tutti i giorni qualche cosa di nuovo. E effettivamente abbiamo un certo numero di veicoli, adesso ne abbiamo due che sono quasi terminati. E uno ha già percorso un paio d'anni fa il tragitto da qui il campus universitario fino in centro a Parma, senza nessuno alla guida e in modo totalmente automatico, e passando per strade urbane, tunnel, semafori, pedoni, insomma un po' di tutto. E adesso ne abbiamo invece un nuovo veicolo, questo lo stiamo testando su circuito per adesso, e a breve, secondo me nel giro di un mese, due mesi, lo porteremo anche questo sulla strada pubblica. Ed è un veicolo fenomenale, perché ha 26 telecamere nascoste, non si vedono, quindi sembra un veicolo normale, però ha tutta la tecnologia per farlo diventare automatico. Se guardiamo ad un'automobile, e un'automobile che è capace di fare guida autonoma, la tecnologia che voi come Vislab all'interno di Ambarella producete o produrrete, che parte è? Come si integra nel resto? Ma noi l'obiettivo che abbiamo è quello di realizzare dei chip per l'elaborazione di immagini. Sono chip di dimensioni minuscole. La telecamera, lo sappiamo benissimo dalle telecamere che abbiamo sul cellulare, che ha dimensioni minuscole. Questi sistemi si possono posizionare tutti intorno al veicolo senza cambiarne l'aspetto, quindi senza modificare, magari alcuni mettono dei cappelli sopra il tetto, oppure strani oggetti intorno al veicolo che ne modificano l'aspetto, ma in questo caso le telecamere si possono integrare in modo veramente semplice nel veicolo. E poi dopo diventano il sistema più importante del veicolo, perché è quello che percepisce l'ambiente circostante. E una macchina può avere, una macchina a guida autonoma potrebbe avere solo telecamere, eh? O sono necessari altri sensori? Ma sicuramente una seconda tecnologia è necessaria, perché la telecamera non funziona al 100%, come tutte le tecnologie, non c'è, visto che questo poi è un sistema che si dice safety critical, deve essere sicuro al 100%, non ci può essere nessun fault. E vuol dire che la tecnologia che si mette, magari due tecnologie, devono essere in grado di funzionare al 100%. Come dicevo prima, non esiste una sola tecnologia che riesca a gestire tutte le possibilità, almeno due tecnologie. Alcuni dicono visione, quindi telecamere e radar, altri dicono visione e laser. Comunque una seconda tecnologia serve. Noi sui nostri veicoli ne abbiamo tre di tecnologie, ce le abbiamo tutte, in modo tale da essere veramente sicuri, però dicevo sono test che facciamo, magari un giorno vedremo che una di queste tecnologie è sorpassata, oppure le altre funzionano meglio, si può eliminare. Abbiamo accennato a questo chip, che cosa farà di diverso dai chip che oggi ci sono già, ad esempio nelle videocamere? Sì, certo, nelle videocamere ci sono chip che acquisiscono l'immagine e magari la comprimono e la memorizzano. Questi chip hanno questa caratteristica fenomenale per cui hanno questa dinamica molto alta, molto elevata, per cui riescono a vedere sia alle alti livelli di luminosità sia a bassi livelli di luminosità e contemporaneamente nella stessa immagine. Quindi quando faccio la fotografia sulla neve, al sole e sono in una luminosità altissima, riesco anche ad apprezzare dettagli che sono invece molto bui, e queste hanno applicazioni tremende, come ad esempio nell'automotive, per rimpiazzare lo specchietto retrovisore. E di solito quando abbiamo uno specchietto retrovisore di notte, una persona sta dietro e viene e accende i fanali, questa abbaglia il guidatore e il guidatore non vede più niente. Con questa tecnologia invece si può rimpiazzare lo specchietto attraverso una telecamera che guarda dietro e poi riproduce l'immagine su un monitor. Al posto dello specchietto si mette un monitor. E la telecamera ha questa alta dinamica per cui se anche un veicolo dietro illumina con gli abbaglianti, sì, si vedono i fanali, ma si continua a vedere anche tutto quello che c'è intorno all'abbagliante. Quindi si apprezza molto bene anche il pedone che magari potrebbe essere nascosto dal faro abbagliante. E la visuale che si ha è tremendamente migliorata, molto migliore di quanto l'occhio umano veda. E questa è una tecnica che, dicevo, va oltre la visione umana, dà più dettagli di quanto noi riusciamo a vedere. Ed è anche un passaggio intermedio tra quello che succede oggi e il veicolo a guida autonoma, dove non avremo neanche più bisogno dello specchietto retrovisore. Infatti queste telecamere poi hanno questa alta dinamica, queste grosse prestazioni che verranno utilizzate per la guida automatica, quindi il veicolo avrà capacità visiva come l'umano, però prendi tutto in tutte le direzioni, perché metteremo telecamere dappertutto, e poi avrà una definizione e una dinamica molto migliore dell'occhio umano. Quindi ci saranno vantaggi sia per la sensorialità a 360 gradi, sia per la capacità, l'acuità visiva dell'oggetto e del pedone magari che ho di fronte a me, che l'occhio umano non vede. Stiamo parlando di chip a basso costo? Assolutamente, sono chip di basso costo e basso consumo. Perché ad esempio in questo istante devono funzionare su telecamere che hanno l'alimentazione a batteria e devono durare per un paio d'ore, quindi il consumo è bassissimo e la qualità deve essere molto elevata. Quindi pochi centesimi addirittura? Sì, starei nell'ordine di qualche dollaro, però sì, sicuramente non di alto costo. C'è chi dice molto presto ci saranno automobili capaci di guidare da sole solamente guardando il flusso di denaro che gira nel mondo. È vero che tutte le case automobilistiche, ma non solo le case automobilistiche, un sacco di aziende stanno buttando denaro, ma in modo molto pesante, verso questa tecnologia? Sì, è verissimo, tutti ci stanno lavorando, tutti, dalle case automobilistiche ai tier 1, cioè quelli che danno tecnologia alle case automobilistiche, e tutti. È un business tremendo, ma perché cambierà tantissimo la mobilità del futuro e il veicolo automatico ci darà vantaggi che adesso non riusciamo nemmeno a immaginare. Non tanto per la sicurezza, anzi direi che la sicurezza è il primo obiettivo, ovviamente, ma oltre a quello ci sono tantissimi altri vantaggi, dal, ad esempio, estendere il raggio di portata del veicolo, perché magari io mi posso mettere sul veicolo alla sera, questo mi porta a destinazione, dormo sul veicolo e mi sveglio al mattino a 800 km di distanza. E così come quando hanno cominciato a usare il cavallo per spostarsi, il cavallo dava molta più autonomia. Stessa cosa, un veicolo automatico dà molta più autonomia del veicolo normale. Certo. Questa data, che ormai mi sembra di capire sia diventata quasi un punto di riferimento, 2020, quasi tutti i produttori, diciamo molti produttori, dicono nel 2020, poi c'è chi dice 2018, 2022, ma insomma grosso modo 2020, avremo a catalogo un veicolo a guida autonoma. Ma è verosimile? Perché il 2020 è qui dietro l'angolo, fra un po' siamo nel 2016. Mm-hmm. Sì, sì, sicuramente. Io devo dire che già un veicolo adesso, in questo istante, una casa automobilistica Tesla ha già messo in vendita sistemi che possono guidare in modo automatico, quindi già c'è adesso. E 2020 sicuramente, ma anche prima, dipende solo da qual è la funzionalità che si mette e che la funzionalità automatica che si installa sul veicolo. Se fosse una funzionalità di guida automatica, ad esempio su autostrada, questo è abbastanza probabile che succeda anche prima del 2020, perché l'autostrada è un ambiente semplice, tutti vanno nella stessa direzione, più o meno alla stessa velocità, non ci sono incroci. Se invece pensiamo ad una guida automatica in città, probabilmente qui serve qualche anno in più. Alcuni dicono una quindicina di anni, però non è sicuramente domani mattina o il 2020. E questa era la voce del professor Alberto Broggi, che attualmente appunto è il direttore generale del VisLab. Una considerazione interessante che mi è stata fatta notare parlando in questi giorni con vari esperti di tecnologie e di varie tecnologie è a proposito del costo del lavoro in Italia. Dicevamo che Ambarella, questa società americana, ha deciso, d'accordo appunto con le persone del VisLab, di mantenere tutti i laboratori in Italia. Allora qui va detto che prima di tutto in Italia, in molte università e in molte regioni, ci sono molte competenze, quindi gli statunitensi, che sono molto pragmatici, ma non solo gli statunitensi, riconoscono che in Italia a livello tecnologico abbiamo molte competenze. E poi va detto che il costo del lavoro in Italia è, rispetto ad altri hub tecnologici come ad esempio Silicon Valley, molto molto molto più basso. Quindi una società ad un certo punto fa anche una considerazione molto semplice sul costo del lavoro, e questo è un fattore competitivo di molte aziende italiane che possono appunto avvantaggiarsi di questo. Poi su questo potremmo parlare molto, ma insomma il dato è questo e va valutato all'interno di questo discorso che abbiamo fatto. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, 2024 riprende tra poco, parleremo di illuminazione intelligente, di illuminazione smart, come si dice oggi, soprattutto resa possibile da un lato le luci LED e dall'altro da internet e da tutte le tecnologie di connettività. È già qui a fianco a me Gianfranco, anzi di fronte a me Gianfranco Giardina, il direttore di dday.it. Prima però volevo dirvi, annunciarvi un bando molto interessante che è stato lanciato dalla Fondazione Vodafone Italia assieme al gruppo 24 Ore. Sapete che diciamo spesso che la tecnologia rende un'azienda o anche la pubblica amministrazione più efficiente. Beh, la stessa cosa vale anche per le onlus, per le cooperative sociali, per le organizzazioni no profit in generale. E quindi a tal proposito vi segnaliamo questo bando che si chiama Digital for Social, il digitale al servizio delle buone idee, promosso appunto da Fondazione Vodafone Italia in collaborazione con il gruppo 24 Ore. Il bando è rivolto a soggetti già attivi nel terzo settore, radicati sul territorio, impegnati soprattutto a sostenere e affrontare il bisogno giovanile in tutte le sue forme, che vogliono rendere più efficace la propria attività attraverso l'utilizzo di strumenti digitali. C'è tempo fino al 20 dicembre, ci sono delle risorse importanti che sono messe a disposizione dalla Fondazione Vodafone, ci sarà anche un roadshow in tutto, insomma, in buona parte dell'Italia per far conoscere questa opportunità. Maggiori informazioni le trovate sul sito fondazionevodafone.it, quindi molto facile, fondazionevodafone.it.

i LED colorati emettono meno luce. Meno luce. Quindi questo comporta il fatto che non sia una lampada, delle lampade RGB messe in casa considerabili sostitutive di un'illuminazione normale, ma aggiuntive per creare degli accenti colorati di arredamento o cambiare l'atmosfera. È chiaro che io posso avere una bella atmosfera sulle mie pareti. Normalmente queste lampade vengono usate proprio in riflessione sulle pareti, poi per colorare le pareti, per colorare il pavimento, un marcapasso, qualche cosa di questo tipo, e creare un ambiente per esempio tutto blu, serale, molto rilassante, in base anche a quello che succede in casa. Oppure sì, posso avere un party, una festa, eccetera eccetera, crearla magari sui colori rossi, sui colori verdi, quindi su altri colori. Senti, tutti i produttori ormai fanno queste lampade smart? No, non tutti i produttori, ce ne sono però incominciano ad esserci tanti. Il più diciamo celebre utilizzato, quello che è iniziato per prima, è che anche lasciato libere le proprie librerie, quindi ha dato open source le proprie librerie, quindi ci sono anche un sacco di applicazioni che le gestiscono, sono quelle di Philips Hue, quindi sì. HUE, che proprio una gamma, una linea di prodotti smart che hanno la propria app, ma poi c'è, dicevo, una quantità enorme di app di terze parti che è molto interessante. Per esempio, faccio un caso di app di terze parti: un'app che rileva col microfono dello smartphone il rumore ambientale, idealmente la musica che c'è in ambiente, e fa il vecchio effetto delle luci psichedeliche degli anni 70, cioè utilizza il sistema di luci Hue, che può essere di luci bianche o di luci colorate, per creare degli effetti luminosi perfettamente a ritmo col rumore che senti. Sì, quindi, ma ce ne sono tantissime di app, ma veramente incredibili. Sì. Tutto questo, quindi Philips Hue, ma anche altre, possono essere integrate anche in un sistema più ampio. Quindi esiste un sito, ne abbiamo già parlato altre volte, che si chiama ifttt.com, che è un sito che crea, adesso non vorrei dire una parola troppo complessa, un motore inferenziale. Cioè, che cos'è un motore inferenziale? Ma è una cosa molto semplice. L'utente si registra, crea delle sue ricette, così si chiamano, e la ricetta che cos'è? È una condizione. Quando si verifica una determinata condizione, fai quella determinata azione. La cosa bella è che le condizioni e le azioni possono essere scelte da una libreria abbastanza ampia, direi enorme, di trigger, quindi condizioni, e di attuazioni, esecuzioni. Sì. Per esempio, noi potremmo dire: quando il Milan, sono milanista, quando il Milan segna un gol, fammi un bel lampo rosso. Tutte le luci accese. Sì, e come fa a sapere il sistema che il Milan ha fatto gol? Perché io posso collegare IFTTT a un sito di notizie sportive, posso intercettare l'evento gol del Milan e posso dare come esecuzione: fammi un lampo rosso sulla mia lampadina. Quindi questo è un'applicazione un po' forse stupida, però ridicola, per far eccetera, capire eccetera. Sì, però posso fare, e allo stesso modo posso creare così molto facilmente dei pattern pseudo casuali di accensione dell'illuminazione anche quando sono via, tenendo conto che passando le lampadine LED risparmiamo circa l'80% dei nostri consumi, possiamo permetterci qualche accensione in più come deterrente rispetto ai furti in casa. Molto bene, abbiamo diciamo accennato quello che si può fare con le lampadine smart. Questo è un tema su cui magari torneremo, perché si possono effettivamente creare tante cose molto belle. Ancora i prezzi sono un po' elevati, però. Sì, cioè, c'è uno step ulteriore di cui magari ci occuperemo, che è quello di decidere di non avere solo la lampadina smart, ma magari di avere qualche elemento smart nel proprio impianto elettrico. Quindi andare un pochino oltre, avere proprio delle accensioni, degli spegnimenti che, pur rimanendo collegati al pulsante, accendi, spegni, però sono comandabili anche da remoto, e qui si deve andare un po' oltre la lampadina, si deve andare sui pulsanti, sugli attuatori. Esistono già tante soluzioni di quella che io chiamo domotica dal basso, cioè domotica molto perché semplice. Perché io compro, vado a casa e monto facilmente. Sì, molto facilmente. Non è radicale, non è un impianto integrato. Sì. Si incomincia a inserire in casa qualche elemento domotico interessante carino per applicazioni specifiche, assolutamente vincente. Ecco, quindi di questo ne parleremo. Esatto, molto presto. Grazie a Gianfranco Giardina per essere stato con noi, il direttore del magazine digitale D-Day.it, e più volte vi siete occupati proprio di queste cose. Sì, sì. A presto, grazie. Grazie mille. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre vi ringraziamo per la vostra attenzione, per aver scaricato oppure ascoltato in streaming questa nostra puntata. Torniamo la prossima settimana. Stiamo pensando, siamo già quasi d'accordo con un ospite che ci verrà a trovare, di parlare di eredità digitale, un tema che ci è stato richiesto da alcuni ascoltatori. Allora cercheremo di fare presto una puntata su questo tema. Prima di chiudere, una parola di cordoglio per la scomparsa di Enrico Gasperini, che anche i nostri ascoltatori ricordano. Purtroppo se n'è andato a causa di un infarto proprio alla fine di questa settimana. Enrico Gasperini era, oltre al presidente di AudiWeb, il fondatore di Digital Magics, un grande esperto di startup, un grande appassionato di tecnologia e anche di tecnologia portata avanti dai giovani, proprio per questo il suo impegno nel mondo delle startup. Recentemente, probabilmente molti dei nostri ascoltatori avranno ascoltato un'intervista che abbiamo realizzato durante SMAO, proprio per parlare del sistema startup, e lui è stato uno degli ideatori di un libro bianco per fare alcune proposte per migliorare il sistema startup in Italia. Se non avete ascoltato quell'intervista, sul nostro sito internet trovate una puntata speciale dedicata a SMAO, anche con questa intervista ad Enrico Gasperini. È sicuramente una mancanza molto grande per il sistema digitale italiano. Non aggiungo altro, vi ringrazio ancora per l'attenzione a 2024, ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.